pratica, la vita non è pratica, non arrivo mai a togliere il difficile dal facile, come se un problema fosse l'ultimo. C'è chi dice che scontato è quel che è semplice, e certo non ha mai provato il gusto di restare immobile, ma vive grazie all'aria che è invisibile. Lavoro e tempo libero, la formula è segreta, il mondo è chimico, è uno sport ormai girare in tondo sopra i guai, scappo in Africa, cucino i rigatoni al mango e paprika, la cena mi fa senso ma è più esotica.